L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa domenica 18 maggio, giornata delle oasi del WWF Italia. La giornata delle oasi è l'annuale appuntamento che coinvolge il centinaio di oasi naturali gestite dal WWF nel paese per una superficie complessiva di circa 35.000 ettari. Nel loro insieme rappresentano i principali ambienti dell'Italia e sono luoghi di rifugio per specie animali e vegetali rare o a rischio. Oggi le oasi sono aperte gratuitamente a tutti e offrono animazione, iniziative, manifestazioni varie e quindi giochi didattici, liberazione di animali curati e pronti a tornare nel loro ambiente, oppure esposizioni, momenti culturali, mercatini con prodotti biologici. Di recente il WWF ha potuto realizzare nuove oasi, quelle di Scivu e Santo Stefano in Sardegna, il bosco Foce Arrone sul litorale romano e boschi di Marzagaglia in Puglia. Ne ha ampliato anche altre, da nord a sud. Ecco, questo è il giorno giusto per visitare nuove e vecchie oasi. Troverete l'elenco sul sito del WWF Italia e per salvare anche quella che il WWF stesso definisce l'oasi del mondo, cioè l'Amazzonia, con l'invio di un SMS che ha valore di 2 euro. Di tutto questo abbiamo parlato con Alessia Sacchetti del WWF Lombardia, che abbiamo incontrato proprio in una oasi, il bosco WWF di Vanzago. Sono 200 ettari in provincia di Milano. Per tutto il giorno in Lombardia e in Italia ci saranno le oasi aperte, quindi si potranno fare visite guidate, attività, scoprire quella che è la bellezza naturalistica delle oasi italiane, che coprono comunque più di 35.000 ettari in tutto il territorio, quindi in tutto il paese, che non è poco. Sono più di 100 e tutte durante la giornata faranno un'attività rivolta al pubblico, in qualche modo proponendo quelle che sono le loro peculiarità, le loro caratteristiche, quindi per ogni territorio ci saranno attività diverse. La giornata è il 18, che ha come tema quello di quest'anno, quello appunto che dicevi, della salvaguardia dell'Amazzonia. Ok, quindi salvaguardia dell'Amazzonia e che alla quale si può contribuire come? Per questa giornata si può contribuire mandando un SMS al 45505, quindi con un contributo di 2 euro, 2 o 5 euro se si chiama da rete fissa, e si potrà dare il proprio contributo per la salvaguardia dell'Amazzonia, considerata la più grande oasi, tra virgolette, la più grande oasi naturalistica del mondo. In realtà la più grande foresta pluviale, non a caso viene chiamato il polmone verde della terra, senza il quale, senza i suoi più di 100 milioni di ettari, avremo delle difficoltà a livello di specie, perché comunque da sola contiene più del 10% delle specie e da sola comunque ha un altissimo livello di biodiversità che è necessario preservare. In che cosa verranno impiegati i fondi raccolti? Perché so che ci sono già delle idee precise, insomma. Allora, i fondi verranno utilizzati per portare avanti, in realtà ovviamente WWF si sta occupando da anni ovviamente della gestione dell'Amazzonia, in particolare di progetti di gestione integrata sostenibile in un territorio che è compreso tra il Perù, la Colombia e l'Ecuador, il cosiddetto Triangolo Verde. Ci saranno dei progetti mirati alla conservazione della biodiversità nel rispetto di quelle che sono le specie viventi, incluso anche l'uomo, perché ricordiamo nel territorio amazzonico vivono moltissime persone, moltissime popolazioni indigene che vivono dell'Amazzonia e che quindi risentono in prima persona del degrado e della deforestazione che si sta portando avanti in questi anni. Quindi la gestione non è soltanto a livello ambientale delle specie animali, ma anche delle popolazioni locali che fino ad oggi hanno vissuto e hanno in qualche modo utilizzato per la propria sopravvivenza quel territorio, in modo sostenibile, ovviamente. Dunque, veniamo invece all'oasi Bosco WWF di Vanzago. Intanto vorrei sapere che tipo di attività si svolgono qui. Noi ci siamo in questo momento, è un'area molto vasta, non è esclusivamente dedicata alle visite dei bambini, delle scuole, di tutti. Che tipo di attività si fanno? Allora, quindi, come tu hai detto, si fanno attività, visite guidate, quello che fanno normalmente nelle OSI, quindi attività didattiche, di esplorazione, di conoscenza, di informazione, divulgazione della natura, ma è anche un CRAS, quindi un centro di recupero animali selvatici. Questo significa che c'è uno staff qualificato tra veterinari e volontari che prendono in cura gli animali selvatici che vengono portati o segnalati, cercando il più possibile di rimetterli in salute, garantendone di nuovo la libertà. Quindi spesso, per esempio, per il 25 aprile c'è stata la grande liberazione dei rapaci, quindi degli uccelli rapaci che erano sotto la cura del CRAS di Vanzago, sono stati liberati in occasione di quella giornata. Quindi le specie selvatiche in qualche modo vengono curate e si tenta di rimetterle in libertà il prima possibile. I problemi dipende anche dall'animale. Alcuni problemi, cioè la maggior parte dei problemi possono essere causati dall'uomo, l'esempio più comune, gli animali che magari subiscono degli incidenti in strada, oppure semplicemente degli animali selvatici che vengono trovati in difficoltà in contesti urbani e quindi i cittadini non sono in grado di gestirli naturalmente. Gli animali quindi vengono portati qui per capire se hanno dei problemi di natura fisica, se non li hanno, vengono rimessi in libertà in quello che è il loro ambiente naturale. Quindi in realtà i problemi possono essere più svariati. Si pensa alla salute dell'animale, ma anche, insomma, in qualche modo alla salvaguardia del cittadino, che non deve, insomma, in qualche modo mettersi per forza in prima persona, ma può semplicemente segnalare un animale in difficoltà chiamando il centro. In Lombardia le oasi sono più di 10, meno di 10, più di 10, sparse un po' Sono dappertutto. Sì. sparse, sì, sono sparse un po' dappertutto, ovviamente sono in gestione da volontari con il supporto ovviamente a livello comunale, quindi è una zona verde che viene presa in gestione dal WWF, con il supporto magari di altre associazioni o di cooperative per quanto riguarda l'educazione ambientale. Ci sono svariate collaborazioni. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. Seconda parte della puntata. Continuiamo ancora per qualche minuto a parlare della giornata delle oasi del WWF che oggi sono aperte e gratuite in tutta Italia. Abbiamo già detto della raccolta fondi che in questa giornata sta conducendo il WWF per la tutela dell'Amazzonia, che è la più grande oasi al mondo in un certo senso. Ricordiamo che si contribuisce con un SMS al 4555. E poi abbiamo parlato con Alessia Sacchetti del WWF Lombardia, dell'oasi di Vanzago in provincia di Milano, e continuiamo quindi questa conversazione. Negli ultimi anni c'è stato molta discussione, molto movimento su, appunto, salvare il paesaggio, salvare tutto. Voi avete visto un numero crescente di volontari o stabile? Cioè, siamo a livello di parola o anche di azione poi da parte dei cittadini della Lombardia? Allora, come livello di volontari, la Lombardia ne conta un buon numero, cioè semplicemente anche come livello di soci, persone che danno, non ce la fanno magari per motivi di lavoro, familiare, a fare il volontario in prima persona, quindi a lavorare in un'oasi, però danno il proprio contributo come socio all'associazione. Un grande interesse a livello dei ragazzi, abbiamo riscontrato per esempio il WWF Milano, non ha un'oasi ovviamente da gestire, però comunque porta avanti delle attività che hanno avuto un certo successo tra i ragazzi che quindi hanno deciso di partecipare alle sue attività. In ogni caso, ogni oasi ha una situazione a sé. Diciamo che io arrivo da un'oasi, comunque arrivo dalle oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda, e eravamo un po' di ragazzi, quindi c'è un certo numero di ragazzi. So che c'è tuttora, perché poi vabbè, adesso sto facendo altro, però teniamo un po' sotto controllo tutta la situazione. Dipende da ogni oasi, da quello che fa, cosa propone, però c'è una buona percentuale di ragazzi. ragazzi anche molto interessati a livello naturalistico. Il 18 qui a Vanzago si fa qualcosa in particolare vista la giornata? Sì, vista la giornata si fa qualcosa di particolare. La mattina c'è un evento molto importante alle 10 che è la piantumazione, la messa in protezione dei nuovi alberi nella zona del bosco, che è una zona abbastanza nuova di bosco, quindi soprattutto i ragazzi verranno coinvolti in questa attività di piantumazione, ma anche messa in sicurezza della pianta attraverso delle reti per proteggerla dai caprioli, che fanno parte della fauna di questa zona, ma che in qualche modo vanno tenuti un po' alla larga dalle giovani piante. Quindi vanno bene i caprioli, continuiamo a essere contenti della loro presenza qui, ma siamo anche contenti delle piante, quindi cerchiamo di trovare un equilibrio tra le due specie. Ci saranno anche altre attività, per esempio ci sarà la proiezione del film Amazzonia, che è stato premiato alla 70ª mostra del film di Venezia con il premio Ambiente, ed è stata la prima a Milano proiezione a The Space. Un po' di tempo fa, credo più di un mese fa, c'è stata la prima milanese del film, che è un docufilm, quindi un documentario film in 3D, ed è veramente molto interessante perché per la prima volta si può veramente sorvolare l'Amazzonia come se si fosse lì. E poi ci saranno anche delle attività, per esempio di intrattenimento, come l'attività teatrale che è a cura di TAC Teatro, oppure degli stand gastronomici. Insomma, ci saranno un po' di attività rivolte al pubblico. Sul tema delle oasi ci fermiamo qui, ma abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e lo vogliamo impiegare per parlare ancora di territori salubri e tutelati e dell'importanza di una corretta educazione e informazione anche per la commercializzazione dei prodotti che provengono da un territorio. Di questo tema abbiamo avuto occasione di parlare alla Fiera Cibus di Parma, dove abbiamo incontrato Antonio Lucisano, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, DOP. È un prodotto di eccellenza, rinomato in tutto il mondo, è ultracontrollato, è sicuro, ma alla fine dello scorso anno anche la mozzarella di Bufala Campana, DOP, ha subito i contraccolpi della diffusione dell'allarme per la Terra dei Fuochi, quell'area ben delimitata di territorio campano tra le province di Napoli e Caserta, tristemente noto per i roghi di rifiuti. Quella appunto però è un'area limitata e la mozzarella di Bufala DOP è ben controllata. Eppure sentiamo Antonio Lucisano e cosa ha deciso di fare il consorzio. A proposito di Terra dei Fuochi, il nostro consorzio organizzò in ottobre una operazione trasparenza che secondo me avrebbe dovuto ricevere molta più attenzione da parte dei media. Che cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo, essendo talmente sicuri del nostro prodotto e del numero infinito di controlli a cui il nostro prodotto è sottoposto quotidianamente, puoi fare quello che abbiamo fatto noi. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo chiamato le quattro più importanti associazioni di consumatori italiane e gli abbiamo detto, prelevate del nostro prodotto, purché abbia i due marchi della DOP e del consorzio, in giro nella grande distribuzione italiana, dove volete, a Trento, a Caltanissetta, a Lecce o ad Aosta, a nostra insaputa, prelevate questi campioni, dateli a questo corriere e inviateli a questo laboratorio in Germania, che è il laboratorio che certifica la Mercedes, tanto per insomma non lasciare nulla di intentato. E abbiamo fatto analizzare diossine, metalli pesanti, brucella, tutto ciò che nell'immaginario collettivo poteva essere associato a Terra dei Fuochi. Naturalmente i risultati di queste analisi non sono stati comunicati a noi, ma direttamente all'associazione dei consumatori. Nel frattempo il consorzio aveva acquistato gli spazi sui principali quotidiani nazionali per pubblicare i risultati stessi. Naturalmente i risultati hanno dimostrato che metalli pesanti, ovviamente tutto assolutamente in regola, diossina, che era la cosa che più poteva preoccupare il consumatore, ebbene il dato medio di diossina nel nostro prodotto è un ventesimo del limite previsto dalla Commissione Europea, e il dato più alto in assoluto tra tutti i campioni analizzati è stato di 10 volte più basso. Quindi il problema davvero non esiste, semplicemente non esiste. Quindi, ma non esiste nei prodotti del consorzio, o in generale non esiste, è esagerato dai media? Allora, nel nostro prodotto il problema non esiste. In una porzione infinitesimale del territorio della regione Campania, stiamo parlando di 800 ettari su 500.000, dunque stiamo parlando dello 0,0 eccetera, esistono questi problemi di discariche abusive e quant'altro, che sono stati chiamati terra dei fuochi. Ma deve essere chiaro che in quei territori, che non io né lei, ma tre ministri della Repubblica insieme, agricoltura, ambiente e salute, hanno concordato essere i veri ambiti del problema, in quegli 800 ettari non cresce nulla di commestibile. Quindi io non parlo solo della mozzarella di bufala campana, io parlo anche dell'ortofrutta campana, che è un'ortofrutta straordinaria. Cioè, il pomodoro campano non può essere paragonato con altri pomodori, e parlo di un prodotto che non, evidentemente non fa parte della mia, come dire, della mia responsabilità, ma ne parlo con cognizione di causa. Non esiste pomodoro che possa compararsi in termini di qualità organolettica al pomodoro campano. Il San Marzano, il pomodorino del Piennolo, il pomodorino giallo del Vesuvio, il corbarino, sono delle eccellenze che esistono solo in Campania. L'ortofrutta, il cavolfiore, il broccolo, eccetera, che viene venduta regolarmente in tutte le catene della grande distribuzione tedesca ed austriaca, che li sottopone a controlli spaventosi, non hanno mai dato un solo dato che fosse oggettivamente né fuori standard né tantomeno preoccupante. Quindi parliamo purtroppo del nulla, ma questo nulla si è ripercorso in termini economici con risultati tremendi, tanto che persino i vini dell'Irpinia o del Cilento, che distano 150 chilometri da questi 800 famigerati ettari, hanno subito delle contrazioni, dei danni in termini. E allora ecco che qui l'informazione di qualità dovrebbe consentire di fare chiarezza, non per dire che il problema non esiste, ma se il problema esiste è un problema delle istituzioni locali, tutte, e parlo evidentemente di chi avrebbe dovuto fare i controlli e non li ha fatti, di chi avrebbe dovuto giudicare e non ha giudicato, di chi ha consentito che per decenni avvenisse quello che è avvenuto. Ma non si capisce perché adesso invece deve subire le conseguenze debbano essere dei piccoli agricoltori, dei piccoli produttori che ci mettono tutto l'impegno del mondo, che più che farsi controllare i prodotti alla cieca non possono fare, per dimostrare non solo l'innocuità di questi prodotti, ma la straordinaria qualità organolettica di questi prodotti rispetto al resto delle produzioni europee. E l'ultima cosa che voglio dire, la qualità della falda acquifera campana. Io mi chiedo sempre perché la Regione Campania non abbia fatto la stessa cosa con la qualità dell'acqua campana, cioè perché non abbia chiesto di comparare a caso dei campioni di acqua campana con l'acqua, per esempio, delle regioni industrializzate del nord. Invece il paradosso qual è? Che oggi si dice non consumate il prodotto campano perché è un prodotto inquinato. Per non essere accusato di faziosità, io devo chiarire un aspetto. Io parlo dell'oggi, cioè parlo dello ieri, dell'oggi e del domani, non parlo del dopodomani. Cioè io dico con molta onestà intellettuale che le valutazioni che io faccio, che sono valutazioni insomma confortate non soltanto da dati analitici ma da ragionamenti scientifici molto seri, sono valide per oggi e per domani. Per dopodomani bisogna andare cauti, perché io non posso escludere ovviamente che se quanto dei pentiti di Camorra hanno detto, fatta la tara ovviamente a quello che hanno detto, perché sappiamo perfettamente che quando un pentito parla insomma bisogna davvero trattare con i guanti, ma mettiamo che siano tutte vere, bene, allora io dico è probabile o comunque può esistere il rischio che fra 5 anni, fra 10 anni, fra 15 anni la situazione cambi. Io so per certo che la situazione oggi è assolutamente sotto controllo e dà una qualità straordinaria ai nostri prodotti. Grazie ad Antonio Lucisano, direttore del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP. Ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento con L'Altro Pianeta è per la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini un saluto e buon ascolto.